Uno, due, tre. Adesso, tra poco ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. L'Italia si desta. E allora siamo qui alle 7:20 minuti, ben ritrovati cari ascoltatori, pronti a leggere i giornali con voi. Vi ricordo che oggi parleremo di politica, è atteso il video di Berlusconi, arriva, non arriva questo video, chi lo sa? Insomma, siamo al terzo video secondo i giornali, non se ne è visto neanche mezzo fotogramma finora, ma ci sarebbero già tre versioni. Oggi forse ve ne verrà rilasciata una. Staremo a vedere. Intanto la giunta per la decadenza, per l'immunità, deciderà oggi primo voto. Ne parleremo alle 8:15. Avremo tre esponenti politici, Stefania Pezzopane e Enrico Buemi della giunta, e poi il capogruppo al Senato del Movimento 5 Stelle Nicola Morra. Questo più avanti, ed ora i giornali. Questo mercoledì 18 settembre, intanto i titoli. L'economia sul Sole 24 Ore in prima pagina, il titolo è Spread, l'Italia torna avanti. Mentre il Corriere della Sera ha un'economia diversa, verso l'aumento dell'IVA. Questo è il titolo di prima pagina, avete capito bene, verso l'aumento dell'IVA. Poi la vicenda Berlusconi, la condanna definitiva a pagare De Benedetti. Berlusconi condanna da 500 milioni, questo è il titolo di Repubblica. Libero esproprio giudiziario. Per il giornale rapinato Berlusconi, per il Fatto Quotidiano frodatore e corruttore, Berlusconi ha scippato 500 milioni. Il Secolo XIX, Berlusconi stangato, paghi 494 milioni. Per la Stampa, Berlusconi mezzo miliardo alla CIR. L'Unità, il conto di Berlusconi. Il Manifesto, video poker, tutte le sentenze vengono al pettine e ci sono le foto di Berlusconi. Il Messaggero torna sull'IVA, aumento IVA, il governo accelera. Avete capito? Forse aumenta. Questo almeno registra il borsino delle quotazioni sull'aumento dell'IVA. Quindi è partito, sta partendo il tormentone da qui al 1 ottobre. Aumenterà o non aumenterà l'IVA? Lo scopriremo solo vivendo, come cantava una vecchia canzone. Intanto però voglio tornare al vecchio appello, oggi più che mai valido: mani strettissime sul volante se siete alla guida, o come al solito se state per gustare una tazzina di caffè bollente, appoggiatela un attimo, perché poi dopo se vi ustionate la mano non dovete darla colpa a me. Ma semmai a quello che potete leggere su Libero e sul Corriere della Sera, due segnalazioni che voglio mettere in apertura di rassegna stampa. Libero con Franco Bechis analizza conto per conto, centesimo per centesimo, il bilancio della Camera dei Deputati. E qui c'è sempre da gioire, no? Nel leggere, per esempio, che spendiamo 4.232.000 euro in un semestre, quindi la cifra va raddoppiata, in un anno 4.232.000 di ristorazione, la ristorazione per la Camera dei Deputati. Per carità, devono mangiare, ma perché, si chiede Libero, nel primo semestre 2012 con la presidenza Fini erano 1.710.000 queste spese, ora sono 4.232.000, tanto che Franco Bechis a pagina 10, il titolo è Laura mangia Fini, cioè la Boldrini mangia Fini, 2,5 milioni in più per cibo e vini. Questo è il titolo, spesa davvero schizzata verso l'alto, quella per la ristorazione, davvero è difficile comprenderlo. Nei primi sei mesi 2012, quando tutti i deputati erano in servizio regolare, questo capitolo indicava consuntivo 1.700.000 euro. Nei primi sei mesi 2013, 4.200.000 euro. Anche qui qualcuno ha festeggiato più di altri, non la lavazza, visto che il consumo di caffè è stato tagliato del 10%. Non i cioccolati della ditta Venchi, ma ad esempio c'è un aumento di prosecco. Il prosecco Valdocca non attirava un granché confini, 483 euro, è passato a 2.440 euro di forniture. Vabbè, ma trovate dettaglio per dettaglio, The Economist, 16.970 euro diamo per The Economist, diamo 2.302 euro in sei mesi alla Camera per la manifattura italiana bandiere. per carità, la bandiera italiana, sacra, importante, bisognerà farle sempre di nuove, pulite. 20.551 euro appunto alla Lavazza Caffè per il caffè, 2.400 euro al Valdoca Prosecco, 13.374 a Cremonini, le carni, 834 euro, vabbè, spiccioli alla Nestlé. E poi 1.699.000 euro per le pulizie, vabbè, ma è un palazzo molto, molto, non sporco, molto, molto grande, quindi da tenere pulito. Vabbè, tutti i bilanci della Camera li trovate, mani strettissime sul volante quando li leggerete, se siete a un semaforo potete dare una sbirciatina, ma non troppo, che poi vi innervosite nel traffico, soprattutto se andate anche sul Corriere della Sera a leggere ciò che racconta Sergio Rizzo a pagina 35. La Corte dei Conti è andata a fare il calcolo delle società possedute dalle regioni, spesso comportando con ciò delle voragini nei buchi dei bilanci poi delle regioni stesse. Sappiate che le società partecipate dalle regioni sono 403. Sono cresciute rispetto al 2012, 9 in più, erano 394, ora sono 403. In testa c'è la Sicilia, scrive Sergio Rizzo, con 33 società di primo livello, alcune delle quali avviate la liquidazione nella nuova amministrazione Crocetta. Appena 3 di meno ne ha la Campania, seguite dall'Emilia-Romagna che ne ha 28, Lazio e Calabria ne hanno 27, una gamma completissima, società di trasporto, imprese di servizi, aziende culturali, ditte di marketing, ce n'è per tutti i gusti. Per esempio in Campania c'è la SMA, Sistemi per la Meteorologia e l'Ambiente, che ha ben poco a che fare però con le previsioni barometriche, una società che si occupa di servizi antincendi con 678 dipendenti, 10 milioni di perdite nel 2011, un patrimonio negativo di 6 milioni. Questa è una delle società. Oppure che dire della ASTIR, anche questa società campana che si occupa di smaltimento rifiuti. 481 dipendenti, messa in liquidazione un paio d'anni fa a causa paralisi dell'attività. Nonostante questo, cosa è successo in questo aprile, l'aprile di quell'anno? Si sono assunte altre 38 persone con procedure, come ha scritto il liquidatore nella sua relazione, in violazione delle norme di evidenza pubblica e del patto di stabilità. Ma certo, perché sono spesso, racconta Sergio Rizzo, società che creano voragini nei conti delle regioni, pagate quindi da tutti voi cari cittadini italiani, e sono spesso anche dei poltronifici per dare magari degli stipendi a persone che poi si ricorderanno di qualcuno che ti ha dato lo stipendio, magari 700-800 euro al mese, quando poi bisognerà andare al voto, eh? Quando poi bisogna votare, ricordati chi ti ha dato questo stipendio, magari a te, a tuo cugino, a tuo fratello, da 700-800 euro al mese anche solo per un anno. Zucchero, sale, previsioni del tempo, i 1000 settori delle regioni imprenditrici, così Sergio Rizzo sul Corriere della Sera spulcia i conti della Corte dei Conti, che ha calcolato 403 società. Attenzione, non sono neanche tutte, ci sono delle regioni come la Sardegna, scrive Sergio Rizzo, che non hanno letteralmente fornito il dato di quante società sono compartecipate. Ci sono anche regioni dunque che, violando la legge, non hanno neanche dato la comunicazione alla Corte dei Conti delle proprie società. La Cassazione civile ha sentenziato in maniera definitiva che Fininvest deve risarcire CIR con, confermando la sentenza d'appello, anche se riducendo rispetto a quella che era condanna in appello, a 494 milioni di euro l'importo dovuto, riducendo, si fa per dire, insomma la cifra è davvero, davvero mastodontica. Laura Galvagni sul Sole 24 Ore racconta la cronaca appunto di come la Corte di Cassazione abbia confermato la sentenza d'appello sul lodo Mondadori. Si concludono così di fatto 25 anni di battaglia tra Fininvest e CIR. Al centro della cui battaglia c'è appunto la questione Mondadori. È il titolo di prima pagina di molti quotidiani, è il racconto della cronaca di molti quotidiani. Vi segnalo come cronistoria di una vicenda che appunto, affondando radici in 25 anni fa, magari qualcuno ha dimenticato. Ebbene, oggi Simone Filippetti racconta in prima pagina del Sole 24 Ore, questa guerra, Piazza Affari, durata qualcosa come 22 anni per la verità, finita ieri, una guerra tra Silvio Berlusconi e Carlo De Benedetti, iniziò nell'ormai lontano 1991 per la conquista della Mondadori. Dopo la condanna di ieri, 494 milioni, tra l'altro ironia della sorte, è passato così tanto tempo che Fininvest paga una somma monstra per un'azienda, la Mondadori, che colpita dalla recessione al valore di oggi capitalizza 260 milioni e l'anno scorso ha perso 167 milioni, insomma due volte tanto è la condanna a pagare, disfasie temporali del sistema giudiziario italiano, sarebbe dunque un caso esemplare di lungaggine dei processi e del perché la giustizia civile sia un grosso ostacolo per fare impresa del paese, ma il lodo Mondadori è nel frattempo è diventato anche un caso politico. E allora, da una parte, racconta il Sole, lo scippo, così De Benedetti reclama di aver subito, dall'altra l'esproprio che Marina Berlusconi denuncia, o la rapina manarbata, come l'ebbe definire lo stesso Berlusconi nelle vesti di premier due anni fa. Riavvolgendo il nastro nel tempo, anni 90, Berlusconi, dopo aver comprato Italia 1, punta gli occhi sulla editrice Arnoldo Mondadori, da cui aveva comprato Rete 4. Lì gli eredi sono spaccati. Alcuni anni prima, nell'aprile 87, a Parigi muore Mario Formenton, il marito di Cristina Mondadori e presidente della società. Già dagli anni 80 Berlusconi aveva iniziato a rastrellare le azioni Mondadori, era arrivato all'8,28%, ma sulla Mondadori punta gli occhi anche Carlo De Benedetti, che con la CIR detiene il 27%. A Natale dell'88 gli eredi Formentone e De Benedetti si accordano. Gli eredi venderanno le loro quote alla CIR e così nascerà un grande polo italiano dei giornali da Repubblica, Panorama ed Epoca. Ma un anno dopo il ribaltone, i Formenton disdicono quell'accordo, ne firmano uno analogo con Berlusconi, che diventa presidente della Mondadori. Scoppia la guerra di Segrate, si ricorre a un lodo, la decisione dà ragione a CIR. Fininvest e i Formenton impugnano la sentenza e nel gennaio del 91 il giudice relatore Vittorio Metta stabilisce che l'accordo dell'88 era viziato, la Mondadori deve dunque andare a Berlusconi. Che succede poi successivamente? Successivamente, dopo le testimonianze di Stefania Ariosto, compagna di Vittorio Dotti, nota come testimone Omega, al processo SME, viene chiamato in causa Cesare Previti, che poi, dopo una serie di vicissitudini giudiziarie, appelli ribaltati, eccetera, viene condannato per avere corrotto di fatto il giudice Metta. E quindi siamo alla condanna in sede civile. Finisce la guerra dei vent'anni, comunque una storia molto intricata che davvero ha tenuto anche in scacco due grandi imprenditori in questa partita a scacchi, si intende, conclusa ieri. Marina Berlusconi, presidente di Mondadori, ripropone le dichiarazioni in un intervento sul giornale a pagina 3. Schiaffo incompatibile con la democrazia, scrive Marina Berlusconi, questa sentenza non è giustizia, è uno schiaffo alla giustizia, rappresenta la conferma di un accanimento sempre più evidente. La magistratura si impone definitivamente di finanziare il gruppo De Benedetti per un importo spropositato, infinitamente superiore al valore della partecipazione Fininvest della Mondadori. Nella Mondadori siamo dalla parte della ragione, dice Marina Berlusconi, lo abbiamo provato senza ombra di dubbio, ma ci vediamo ugualmente condannati a un autentico esproprio. Dall'altra parte gli editorialisti di Repubblica, in particolare Massimo Giannini, che ne è il vice direttore, e Repubblica il cui editore è proprio Carlo De Benedetti, scrive in prima pagina: i bardi della corte di Arcore ancora una volta la sparano grossa, gridano al golpe rosso, all'attacco concentrico, all'esproprio proletario. Molto più banalmente, depurate dal falso ideologico e politico al quale ci ha abituato la propaganda populista del quasi ventennio berlusconiano, le motivazioni della Cassazione sul lodo Mondadori sono solo l'ovvia conseguenza civilistica di una verità giudiziale ormai acquisita. Cos'altro deve accadere, scrive Giannini, perché si debbano considerare vere e non più contestabili le accuse provate in ben sei gradi di giudizio e sanzionate con una condanna della Corte d'Appello del 9 luglio 2011. Inizia così, insomma, la ricostruzione lunga e poi è dettagliata su Repubblica. Vabbè, ognuno ovviamente la dipinge e la descrive come crede, e tutto questo ovviamente ha riflessi sulla tenuta di governo. Allora, questo video intanto arriverà, era annunciato per ieri da parte di Berlusconi, è annunciato ancora per oggi, ma chissà se poi ci sarà anche oggi. Siamo alla terza proposizione del video, limato, rivisto, ricorretto. Finora non si è visto zero fotogrammi, si sono visti, come detto prima, ma ce ne sarebbero già tre versioni. Sta di fatto che Berlusconi conferma la sua ira, come scrive Repubblica, nei confronti dei giudici, è ormai un atto di persecuzione questo. Ma di fatto, secondo tutti i retroscena, ma ormai insomma si sa, ogni mezz'ora qui bisogna aggiornare la situazione, ormai in tutti i retroscena dicono non dovrebbe andare alla crisi di governo. Sta di fatto che è diventata ormai una telenovela che si presta anche alle battute. Iena sulla Stampa, pagina 3, il videomessaggio: fate la carità. Questo sarebbe il contenuto per Iena. Mentre Gene Gnocchi sulla Gazzetta dello Sport in prima pagina: in anteprima visto il video di Berlusconi, comincia così: Veronica, ti prego, fai come Cacà, autoriducici lo stipendio. Ecco, questo Gene Gnocchi ironizza sul video. O chi dà una spalla a Berlusconi, chi gli dà una sponda e che dice: finito, ma che finito, è un combattente, chi è? Te lo aspettavi mai? Michele Santoro, che parte settimana prossima con Servizio Pubblico, fa una lunga intervista, intervistato da Aldo Cazzullo sul Corriere della Sera, parla dei talk, il dibattito sui talk show, sono morti, no? Dice sono vivi, più vivi che mai, ed eccolo qui, il cavaliere politicamente finito, aspetterei a dirlo, l'uomo è un combattente, bisogna riconoscerlo, non è uno che si arrende, potrà essere a fine corsa, ma il sistema politico economico che l'ha prodotto è ancora lì. In questi 20 anni abbiamo pur sempre vissuto in una democrazia malata, ma democrazia. Così parlò Michele Santoro, che poi si toglie uno sfizio sui concorrenti dicendo: Bruno Vespa è un personaggio di primo piano, sempre posizionato nelle pieghe istituzionali del sistema. Certo, mi piacerebbe vederlo contro una vera concorrenza. Lui dice che quest'anno ha la concorrenza di Telese. E perché? Non è vero? E sentite Santoro: ma dai, Luca crescerà, ma al momento è come se l'Inter scendesse in campo contro la Battipagliese. Così Michele Santoro, che parla dunque dei colleghi. Vabbè, la politica è anche questo. Io vi rinvito a rimettere quelle mani strette sul volante che per un attimo sicuramente avete abbandonato, o sui manubri. Perché sentite che cosa propone in un emendamento nella discussione infinita e che sta ancora ulteriormente slittando sul finanziamento pubblico ai partiti. Già questa è una roba che farebbe arrabbiare alquanto. Finanziamento ai partiti, l'aula rinvia ancora, rinviano, in autunno lo faranno, rinviano. Comunque, all'interno di questa discussione, il giornale mette in prima pagina questa notizia che per la verità è stata scoperta dall'agenzia di stampa Public Policy. In Commissione Affari Costituzionali è arrivato un emendamento firmato Rosi Bindi, secondo il giornale, quindi Partito Democratico, che recita così: estendere la cassa integrazione contributi pubblici ai dipendenti di partito licenziati. Sapete che i tesorieri dei partiti dicono: ci riducete il finanziamento pubblico, dobbiamo licenziare i dipendenti. Che è un ricatto vergognoso, perché li pagassero loro con le loro prebende, con i loro soldi. Sì, sì, dite che sono qualunquista, ma la penso proprio così. Li pagassero con le immani risorse che in tutti questi anni hanno fatto passare come rimborso quando era un vero e proprio esproprio volgare che hanno fatto ai cittadini italiani. Avranno accantonato dei soldi. Ecco, invece di licenziare i dipendenti, magari a 800 euro, pagati 1000 euro al mese, li pagassero con quei soldi. O si autotassassero lo stipendio da parlamentari da 10-12 mila euro, si togliessero 500 euro a testa e li dessero al dipendente del partito, che giustamente è vittima in questo ricatto vero e proprio. Comunque la Bindi vuol farci pagare gli esuberi del PD, questo pagina 9 del giornale, l'emendamento è questo: si estenda dal gennaio 2014 ai dipendenti dei partiti le disposizioni in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale e relativi obblighi contributivi, nonché la disciplina in materia di contratti di solidarietà. Non lo facciano, per cortesia, li paghino in un altro modo, Da ottobre aliquota al 22%, titola in maniera quasi certa il Corriere della Sera. Per la verità, insomma, c'è ancora tempo, ma pare che questo miliardo di euro al Tesoro non lo trovino. Un miliardo di euro serve per scongiurare, per avere la copertura che scongiuri l'aumento dell'IVA, che poi lo scongiuri, che lo rinvii tre mesi, poi dal 2014 al 1 gennaio saremo qui a dire aumenterà dal 1 gennaio nel caso l'IVA. E così l'aliquota è vicina al 22%. Io come sempre giro con i due eurini in tasca, li metto a disposizione di lor signori al governo, ma evidentemente non li vogliono, non li chiedono. Comunque questo posso dare, non di più: monito europeo verso l'aumento IVA da ottobre. Tra l'altro c'è una polemica politica perché il commissario europeo Olli Rehn è venuto in Italia e ha detto: avete voluto togliere l'IMU, è stato un errore, adesso pagate l'IMU, l'IVA, apriti cielo, le polemiche politiche, dalla centrodestra soprattutto a dire è un fazioso, sbaglia a dire così. Il dato di fatto è che l'IVA pare proprio in dirittura di aumento al 22% dal 1 ottobre. Prossima puntata, da qui, 18 settembre, a fine 30 settembre, al 30 settembre cercheremo di capire. Oggi, a proposito di tasse, eccetera, di IVA, di queste cose qui, è interessante l'intervista che Beatrice Borromeo fa sul Fatto Quotidiano allo stilista Roberto Cavalli, colui che ha avuto il privilegio di avere Matteo Renzi a presentargli il libro. Quando vedo una Ferrari mando una foto alla finanza. Sentite bene che cosa dice Roberto Cavalli. Io non sopporto chi scherza con le tasse. Si figuri, quando Renzi è andato da Briatore, gli ho scritto un SMS dicendo: ma perché frequenti uno che ha avuto guai con la finanza? Io si figuri che quando vedo una Ferrari parcheggiata in giro, mando la targa ai finanzieri. E anche Beatrice Borromeo dice: ma come, davvero? Giuro! Fossi al governo, dice Roberto Cavalli, obbligherei i ricchi a versare metà dei loro grandi patrimoni. Per questo all'inizio le mosse di Matteo mi sembravano strane. Poi ho capito, lui va a cena con Briatore, ad Arcole da Berlusconi per imparare il linguaggio del nemico. Renzi l'infiltrato, chiede Beatrice Borromeo. E fa bene, devi conoscere chi combatti. Poi Roberto Cavalli, a domanda specifica su Berlusconi, dice: non rispondo di ciò che ne penso, se no mi porta in tribunale. I miei miti sono altri, Che Guevara e Gandhi. Roberto Cavalli ha come mito Che Guevara. Sapevatelo, come si dice su Twitter. Vabbè, questo è sul Fatto Quotidiano. La cronaca mi ha colpito per una notizia a cui tutti i giornali danno spazio almeno in mezza pagina, che è il lato, io direi, orrendo della vicenda già drammatica di per sé, la morte della dottoressa Eleonora Cantamessa. Ricordate che si era fermata a soccorrere delle persone ferite, era stata travolta in una rissa tra indiani. Il lato orrendo di questa storia è che si è scoperto ieri dalle immagini che sul posto durante l'incidente un carabiniere in servizio ha rubato il bancomat di una persona ferita che in quel momento veniva trasportata in ambulanza ed è andato a strisciarlo per giocare alle slot. Bergamo, un carabiniere ladro tra i soccorritori della dottoressa, così per esempio titola La Stampa, ma ovunque il carabiniere ruba una ferita, un trauma per tutta l'arma, titola Libero, oppure lo sciacallo e l'angelo, anime delle due Italia, titola Il Giornale. Beh, Pierangelo Sapegno sulla Stampa si chiede proprio questo: ma che razza siamo noi italiani? La storia del carabiniere che durante i soccorsi per la morte di Eleonora Cantamessa approfittato del caos per rubare la borsa e giocarsi i soldi al videopoker ci lascia uno scoramento infinito. C'era la ragazza che veniva portata in ospedale, c'erano due cadaveri in terra, i feriti che urlavano, e lui si è preoccupato di far sparire il bancomat della vittima e poi è andato a giocarsi 300 euro in due sale slot di Dalmine. I colleghi ci sono rimasti di sasso, dicono che era cambiato negli ultimi tempi, schiavo del gioco. Alla fine però resta una sensazione spiacevole, come se uno si comportasse in quel modo perché così fan tutti. Insomma, è una storia, anche questo spaccato purtroppo, dell'Italia. Lascia quella sensazione che laddove già una storia drammatica con due vittime, una di questa dottoressa che aveva soccorso, però si era trasformata poi in una bella storia di questa madre coraggiosa che combatte per ricordarla in maniera straordinaria, ecco subito arriva invece il risvolto davvero incredibile di questa vicenda che trovate raccontata su tutti i giornali. Siamo però al momento della chiusura e quindi del momento della carta costa, l'articolo più inutile scovato sui giornali. Oggi stravince Nino Materi sul giornale: l'ira dei grandi chef contro i food guardoni, basta foto ai piatti. Sapete che c'è questa moda, peraltro una moda idiota, su questo siamo d'accordo, di fotografare i piatti quando si va al ristorante o i menù e mandare in giro alle persone, agli amici, e ci sono gli chef che si lamentano. Basta questa moda! Rivolta iniziata negli USA, ci sono ristoranti con scritto fuori no food photography e gli chef che dicono è vietato fotografare le pietanze che vi portiamo o il menù per mandarlo agli amici. E il giornale dedica tre quarti di pagina a questa notizia. Come al solito, chi se ne fotte? Ricordatevi, cari amici del giornale, la carta costa.